luci di un'altra realtà. Stringimi forte nelle tue braccia, con la voglia di cambiare. Cerco il sole, cerco amore, come se fosse la prima volta che provi a volare. Chiudi i tuoi occhi, datti lo slancio e via. Fammi svanire, fammi sognare, ti prego portami via. Al sole caere lo scopri negli occhi tuoi. Senti la terra, l'odore del buio. Sogno per due, voci di un'altra realtà. Lontano.